rappresentato un po' l'eredità testuale del Cantone, che è stato presentato giusto una decina di giorni fa, non più tardi di un paio di settimane fa, in cui si traccia questa sorta di censimento, mappatura dell'italica corruzione, che però qui mi sento già di contraddire la presentazione, non è che ci dice com'è cambiata la corruzione, ci racconta com'è cambiata la corruzione che siamo riusciti ad intercettare, cioè la corruzione che in pratica si è rivelata un po' più debole, un po' peggio organizzata. Quella siamo riusciti a tracciarla, mapparla, e quella siamo riusciti in qualche modo a incorniciarla all'interno di quei dati che sono quelli del rapporto, in cui tanta corruzione c'è negli appalti, tantissima corruzione c'è negli appalti. Mi verrebbe da dire, ma è proprio soltanto perché il settore degli appalti è un settore particolarmente succulento per i corrotti e corruttori, o perché magari in altri settori che sono altrettanto e forse più succulenti la corruzione invece non emerge o emerge con maggior difficoltà? Vi faccio un esempio tra i molti. Facciamo da 3 anni un rapporto su infiltrazione mafiosa e corruzione nella regione toscana, e da 3 anni non c'è una sola inchiesta giudiziaria che investa il settore del, diciamo, del governo del territorio per vicende di corruzione in Toscana. Quindi, se uno si limita a leggere quello che emerge in superficie, ne deduce molto, come dire, ottimisticamente, che in Toscana non v'è corruzione nel governo del territorio, quando si danno licenze, concessioni, piani, si cambiano i piani, si modifica, cioè non c'è stato un solo caso di corruzione in Toscana negli ultimi 3 anni. Qualche caso di corruzione c'è stato negli appalti, che in Toscana il dato della corruzione emersa ci conferma che effettivamente è un settore vulnerabile, ma è ovvio, lì arrivano proprio i soldi, come dire, è un settore che l'attività contrattuale dello Stato ha un ammontare di circa 200 miliardi di euro l'anno, che vanno in appalti per servizi, per forniture, per opere pubbliche, quindi è chiaro che è un settore dove lo Stato spende, quindi ci sono molte e lucrose opportunità, ma il settore è il governo del territorio, dove la corruzione non emerge o emerge molto raramente. E quindi nella mappatura che ne fa l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel rapporto appunto presentato da Cantone, forse l'ultimo suo atto ufficiale, non emerge come un settore a rischio. Questo è l'indicatore che in quel settore c'è molta poca corruzione, o che la corruzione nasce da una saldatura di interessi tra due soggetti monopolistici, cioè l'amministratore pubblico che gestisce e governa quei processi decisionali e il proprietario, il costruttore di quei terreni, di quelle diciamo, avventure edilizie che in qualche modo si possono tradurre in un trattamento privilegiato e quindi produrre corruzione. La mia impressione è che la seconda ipotesi sia vera, cioè che noi abbiamo una mappatura della corruzione che emerge che non ricalca esattamente la realtà della corruzione sommersa, ma che al contrario tende a sottostimare la presenza di questi fenomeni in alcuni diversi processi decisionali. Io ho fatto un esempio, se ne potrebbero fare altri, ad esempio un altro settore dove la corruzione emerge molto raramente o più raramente rispetto a quello che ne è la probabile diffusione relativa, è il settore dei controlli, tantissimi controlli che lo Stato esercita in tanti contesti diversi. Anche lì si crea spesso una saldatura di interessi tra il controllato e il controllore, in cui entrambi hanno un interesse a far sì che il controllo non ci sia o venga in qualche modo sviluppato in modo da produrre effetti non troppo negativi o diciamo non produrre effetti del tutto per il controllato, che quasi sempre non è in regola, dato diciamo la cornice regolatoria molto complessa e diciamo di difficile lettura in cui spesso ci si trova ad operare come operatore economico, come privato cittadino, e allora in quel settore la corruzione non emerge perché conviene a tutti che rimanga coperta. Negli appalti la corruzione tende a emergere un po' di più, prima di tutto perché c'è l'ANAC o comunque c'è un'attenzione maggiore da parte diciamo anche degli organi di vigilanza, inclusa la magistratura, su quel tipo di procedure. E poi perché molto banalmente nel settore degli appalti rimane spesso una dimensione concorrenziale più o meno implicita, per cui c'è qualcuno, qualche soggetto escluso, che ha interesse a far trapelare, a segnalare o comunque a diciamo scoperchiare questo tipo di eventuali accordi collusivi o corruttivi che si possono formare tra i corrotti e corruttori. Quindi in realtà noi non sappiamo esattamente com'è cambiata la corruzione. O meglio, non possiamo avere una traccia di come è cambiata la corruzione attingendo a quel dato che guarda soltanto alla corruzione emersa, quindi la famosa punta dell'iceberg. quello che rimane sotto la superficie noi non lo conosciamo e non possiamo conoscerlo. E mi verrebbe da aggiungere, dai pochi indicatori che abbiamo in merito a quello che succede sotto la superficie, non ci sono, come dire, segnali molto consolanti. L'Italia, al di là, diciamo, del dato che è stato anche, leggevo oggi l'articolo sulla stampa enfatizzato da Raffaele Cantone, il fatto che siamo saliti di una quindicina di posizioni nelle graduatorie sulla percezione della corruzione a livello internazionale, quindi qualche piccolo segnale che a livello globale, a livello paese, dà l'idea che il clima forse è un po' mutato. In realtà, quando andiamo a leggere altri tipi di indicatori, forse più robusti, ad esempio indicatori che guardano al costo relativo delle opere pubbliche in Italia e in altri paesi, che guardano appunto al tipo di esperienze che i cittadini in qualche modo rappresentano all'interno di sondaggi che guardano a campioni rappresentativi della popolazione, quindi altri indicatori che fanno in qualche modo a leggere quello che accade o può accadere al di sotto della superficie dei procedimenti giudiziari, perché poi il rapporto presentato da Cantone su quello si basava, sui procedimenti giudiziari, e la realtà è un po' diversa, perché noi continuiamo a mantenere uno spread, un differenziale in termini di costo più alto delle opere pubbliche, in qualche caso anche molto significativo. In almeno alcuni di questi sondaggi, anche lì ci sono comunque un'enorme variabilità, emerge che il coinvolgimento di cittadini o di campioni di cittadini italiani a fenomeni corruttivi o contigui alla corruzione è molto elevato. C'è stato un mega sondaggio dell'Istat con oltre 40.000 intervistati, pubblicato non più tardi di 2 anni fa, in cui viene fuori che quasi il 2% dei cittadini italiani in almeno un'occasione ha venduto il proprio voto. Quindi corruzione elettorale in senso letterale. Sono milioni di voti che hanno condizionato l'esito di consultazioni amministrative, politiche, soprattutto amministrative e politiche. Per gli europei pochi comprano o vendono i voti. Però, come dire, c'è quindi un tessuto di corruzione diffusa che soprattutto in alcuni processi decisionali, se noi andiamo a leggere meglio un dato, che a questo punto però non è il dato delle inchieste, è la lettura approfondita di quello che emerge da quelle inchieste, ci fa in qualche modo preoccupare sul fatto che in Italia possano sussistere in alcuni contesti, in alcune realtà territoriali, in alcuni processi decisionali, sacche di corruzione che neanche più si può definire sistemica, sacche di corruzione che si può definire corruzione organizzata, proprio come la criminalità si organizza. Organizzata vuol dire che la vicenda di Mafia Capitale, al di là dell'attribuzione o meno del 416 bis, ne è un esempio secondo me proprio da manuale, un caso di studio magnifico, in quelle realtà in cui noi abbiamo non soltanto, come dire, una pratica della corruzione, diciamo, capillarmente diffusa all'interno di quei processi decisionali, e questa è la realtà di Roma, come emerge da tutte le inchieste, in quei settori scoperchiati appunto dalla vicenda, dall'inchiesta giudiziaria di Mondo di Mezzo, ma all'interno di quella realtà, di quella pratica di corruzione diffusa, noi abbiamo dei soggetti che svolgono la funzione di regolatori del sistema, quindi che assicurano che la pratica della corruzione, le leggi non scritte della corruzione, che quelli che sono all'interno di quei sistemi corruttivi ben conoscono, una legge fra tutte, la tangente si paga sempre, non ci deve essere incertezza sul fatto se quell'appalto si paga o quell'appalto no, la tangente si deve pagare sempre, perché altrimenti, come dire, avventurarsi nei sentieri impervi della corruzione sarebbe un'attività estremamente complicata, difficile, fonte di incertezza. Ci vogliono certezze nel mondo della corruzione, proprio perché è un mondo illegale. E una delle certezze è quella che in quei contesti si sa che si deve pagare sempre. Questa non è una mia ricostruzione, non emerge dal rapporto di Cantone, emerge dai verbali degli interrogatori, degli imprenditori coinvolti in Expo, nella vicenda Expo, nello scandalo del MOSE, che poi sono gli stessi che 25 anni prima erano stati coinvolti, 22 anni prima in Mani Pulite, sempre gli stessi, che raccontano e mettono a verbale che in Italia per gli appalti al di sopra di una certa soglia, loro si occupano di appalti, penso che gli imprenditori che si occupano di altri tipi di procedure potrebbero raccontare lo stesso, per gli imprenditori che operano in certi settori, gli appalti di sopra di una certa soglia, un imprenditore in Italia non si pone il problema se debba pagare una tangente, si pone a volte il problema a chi debba pagarla. E quando si pone questo problema scioglie l'incertezza assoldando tipicamente un intermediario, un faccendiere, come li chiamiamo in Italia, che in qualche modo lo aiuti a trovare l'interlocutore, il destinatario a cui rivolgersi per stringere quella che a quanto pare in quei contesti rimane una prassi pressoché obbligata. Quindi corruzione organizzata, quando, quindi la vicenda appunto di Mafia Capitale ne è un esempio, noi non abbiamo soltanto la presenza di, come dire, modelli di comportamento, un'altra regola diffusa è la legge dell'X%, cioè a seconda del contesto territoriale del processo decisionale si sa non soltanto che si deve pagare inderogabilmente, ma quanto in percentuale pagare. In questo modo ovviamente si attenua l'imbarazzo e la difficoltà di negoziare e trattare un prezzo. Anche questo noi lo osserviamo, permangono tante regole diverse a seconda dei contesti che stabiliscono la percentuale da pagare, ad esempio rispetto al valore dell'appalto, o comunque il prezzo da pagare per certi tipi di servizi che vengono erogati. Quindi nel mondo sotterraneo della corruzione, ripeto, che non è onnipervasivo, non stiamo descrivendo la realtà del funzionamento della pubblica amministrazione italiana, ma il suo lato oscuro che c'è e che coesiste col, diciamo, il funzionamento fisiologico del sistema, ma coesiste, è un po' a compartimenti stagni, ma c'è. In questo universo noi abbiamo una realtà estremamente ben regolata, ripeto, organizzata. E allora, di fronte a una realtà di questo tipo, mi spaventa, e qui un altro punto che avevi toccato, il fatto che il problema sia scomparso dall'agenda pubblica. Perché hanno lanciato un hashtag, spazza corrotti, e a quanto pare hanno spazzato via la corruzione. Del tema non si parla più. È per sua natura un tema che, diciamo, emerge nel dibattito pubblico, nel discorso pubblico, entra nell'agenda politica in modo intermittente. Oggi c'è perché c'è lo scandalo, poi lo scandalo scompare all'orizzonte, adesso la corruzione non c'è più, perché semplicemente non emerge, non si vede, non c'è un'inchiesta giudiziaria significativa. Anzi, capita in Italia, capitano cose stranissime in questo paese, sia chiaro, sul versante della corruzione non ci siamo fatti mancare nulla negli ultimi decenni. Capita persino che gli imputati festeggino stappando lo champagne perché li hanno riconosciuti colpevoli soltanto di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, senza l'aggravante mafiosa, e tutti a festeggiare come se fosse un trionfo. Anche a commentare su giornali importanti. Assolutamente, un trionfo. Quindi la corruzione è pervasiva, ma è solo corruzione, che è la normalità. Non è mafia quella di Roma. E si festeggia, si stappa lo champagne. Succedono cose meravigliose, che un ex ministro della Repubblica che si è vista pagare 2/3 di una casa con vista Colosseo si ritrovi eletto sindaco di un comune capoluogo di provincia. Cioè, è un paese dove, per chi studia la corruzione, diciamo, si presentano una serie di fenomeni e epifenomeni che sono di grandissimo interesse dal punto di vista anche analitico, no? Però uno di questi fenomeni è che di fronte a una realtà, a un'evidenza di una presenza di corruzione che in alcuni contesti, ripeto, ha una natura endemica e organizzata, il tema non sia così rilevante come si presume dovrebbe esserlo in virtù dei costi e degli effetti devastanti che infligge non soltanto ai bilanci pubblici ma anche alla qualità di tutta una serie di servizi che la pubblica amministrazione rende a ampie fasce della popolazione e soprattutto alle fasce più deboli e marginali. Perché è scomparso dall'agenda? Banalmente, non soltanto è scomparso dall'agenda, mi verrebbe da dire c'è anche di peggio. Hanno fatto un decreto sblocca cantieri, che si chiama anche lì hashtag, qui si va avanti, la politica in Italia va avanti a forza di hashtag, l'hashtag sblocca cantieri, tra l'altro che si aggancia allo spazza corrotti perché si è giustificato l'allentamento di un sistema di garanzie contro il rischio corruzione negli appalti per le opere pubbliche dicendo che tanto c'era lo spazza corrotti che provvedeva, quindi si poteva un po' liberalizzare il sistema degli appalti, appunto. Beh, in questo, anche qui, decreto, poi legge, sblocca cantieri, di fatto, tra le molte misure, a mio giudizio, discutibili, ce n'è una che prende un modello che noi abbiamo già utilizzato, che è il modello della cosiddetta cricca della protezione civile, e lo applica a tutte le opere che il governo deciderà di commissariare, a sua discrezione. Quindi ogni opera pubblica potrà diventare qualcosa per la quale si opererà in deroga a tutte le norme e le disposizioni vigenti. È il modello della cricca della protezione civile che in Italia abbiamo già sperimentato e abbiamo anche visto come è andata a finire. Però lo si riproduce sempre con questa idea della... Quindi non soltanto si rimuove il problema dall'agenda, ma di nuovo si inoculano all'interno del sistema, come dire, quei germi, quei fermenti della possibile, io direi probabile, quasi certa corruzione futura. E allora cosa si può fare? Citavi i piani anticorruzione. Ora, ogni anno l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, fa il suo bel aggiornamento del piano annuale, in cui introduce nuovi settori che analizza, per i quali pone una serie di possibili e aumenta anche la gamma di strumenti che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rafforzare i presidi utili a rilevare il rischio di corruzione, applicare strumenti. Quindi c'è stato uno sforzo in questi anni incrementale di costruire un impianto che diventa anche un impianto che si traduce in strumenti di attività amministrativa per prevenire e rilevare la realtà della corruzione. Alcuni di questi strumenti sono stati anche rafforzati nel corso degli anni, gli strumenti per la segnalazione del potenziale illecito, no? Il cosiddetto whistleblowing, e vabbè, ha citato i codici di condotta, giustamente, e altre misure, la mappatura del rischio corruzione, l'altra grande sfida per le pubbliche amministrazioni. Il problema è che anno dopo anno l'ANAC, nel fare una analisi, un minimo di valutazione retrospettiva degli effetti prodotti da questi piani triennali di prevenzione, arriva sempre, inevitabilmente, alla medesima conclusione. Nella stragrande maggioranza dei casi questi piani sono depotenziati, per usare un eufemismo, cioè sono sostanzialmente carta inutile. Greta piange quando si pensa a quanta carta viene sprecata con questi piani triennali di prevenzione, la povera Greta Thunberg, quanta carta sprecata, perché sono improntate a quella che l'ANAC chiama la logica dell'adempimento. Terrificante. E ci si sorprende, la pubblica amministrazione italiana è dominata dal, non solo la pubblica amministrazione come branca, diciamo, dello Stato, ma sicuramente la pubblica amministrazione è dominata da un insieme di competenze che sono per lo più di matrice giuridica, estremamente formalistiche, per cui quando gli si pone l'ennesimo onere di redigere il piano triennale di prevenzione della corruzione, questo piano sarà ineccepibile dal punto di vista formale, che si associa e si collega in qualche modo ai processi decisionali e all'efficienza di quei processi, questo rimane completamente al di fuori dal perimetro di interesse del redattore del piano, che si vuole sostanzialmente lavare le mani con la sua produzione e basta. Quindi non ha interesse, non ha incentivi, non ha neanche le competenze spesso. Perché, che se ne dica, i dipendenti pubblici non sono stati molto formati sui temi dell'anticorruzione. Anzi, gli è calata dall'alto questa ennesima incombenza, questo ennesimo insieme di incombenze, di doveri da adempiere, con scarsa preparazione, scarsità di risorse, ovviamente questo ha contribuito ancora a determinare una propensione a utilizzare questi piani come semplice strumento per, in qualche modo, ottemperare agli obblighi di legge. E basta, fine lì. Questo è il risultato migliore. Guarda, è terribile. E questo è il risultato migliore. Il risultato peggiore qual è invece? Ma cos'era questo? Era... È l'assistente di Google che non riesco a tirare via. L'assistente di Google, ok. Beh, senti Google cosa propone per lottare contro la corruzione. Cos'è? L'assistente di Google, come si chiama? C'è un nome? No. Vabbè, ok. C'è un nome. Almeno. Ok. Cosa si può fare? Allora, non ne ho la più pallida idea, perché altrimenti presentavo una piattaforma politica, scendevo in campo, vincevo le elezioni e sconfiggevo la corruzione in Italia. So cosa non si deve fare. Io sono poesie di Eugenio Montale, codesto soltanto oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Quindi ciò che non siamo e ciò che non vogliamo, ciò che è inutile nella lotta alla corruzione, è molto di quello che è stato fatto negli ultimi anni. Cioè, ad esempio, e anche parte dell'hashtag spazzacorrotti, inasprire le pene, il DASPO a vita per i corrotti, e l'ennesimo incremento delle pene e delle sanzioni, tutto questo è completamente inutile, perché i meccanismi, come dire, generatori e rigeneratori che rendono la pratica della corruzione in alcuni contesti direi quasi una scelta obbligata, salvo, come dire, decisioni eroiche di mettersi da parte o di restare ai margini, in alcuni contesti veramente eroiche, lo dimostra il rapporto appunto amministratori sotto tiro di avviso pubblico. Ecco, questi meccanismi generatori non possono essere intaccati dall'inasprimento delle pene. Ogni tanto se ne becca qualcuno, magari si mette ai margini, raramente si arriva alla condanna di terzo grado, fino al terzo grado di giudizio, e però chi viene sostituito rientra all'interno di quei circuiti, subisce lo stesso tipo di pressioni, come dire, aderisce allo stesso tipo di sistema di regole non scritte, quelle che citavo prima, quelle che governano il funzionamento della corruzione sistemica e della corruzione organizzata, e lì, come dire, all'interno di quei sistemi la scelta della corruzione è pressoché obbligata. Quindi non si risolve il problema della corruzione inasprendo le pene, cosa che è stata, come dire, l'elemento comune di tutte i provvedimenti di riforma degli ultimi anni, dalla Severino in poi, si potrebbe dire. E non si combatte la corruzione producendo carta, facciamo piangere la povera Greta e basta, non otteniamo altro risultato che produrre ancora carta. Io ho fatto dei corsi di formazione negli enti locali, sì, ci sono i codici di comportamento, facevamo una specie di lavoro, di laboratorio, chiedevamo: ma quanti di voi sanno che esiste un codice di comportamento? in una platea di questo tipo, una, due mani che si alzava, conosce i contenuti del codice comportamento? No. Quindi pochi lo conoscono, pochi sanno che esiste e nessuno praticamente ne conosce i contenuti. A cosa servono i codici di comportamento così concepiti se non c'è un coinvolgimento del personale nella loro, mi verrebbe da dire, nel loro concepimento? Ma il codice di comportamento, anche quello, si basa sulla logica dell'adempimento, cioè quello previsto dal decreto ministeriale, mi pare, un decreto ministeriale quello del codice di comportamento, o no, comunque un decreto legge, non è un decreto legge, comunque è un atto di legge che viene preso, copiato e incollato dai vari enti locali e poi messo lì. Noi il codice di comportamento ce l'abbiamo, non ci potete in qualche modo imputare un inadempimento, perché noi il codice ce l'abbiamo, l'abbiamo approvato, quello che nessuno conosce o che pochissimi conoscono. Un minimo di conoscenza legata al fatto che per la prima volta ha previsto un limite di valore ai regali che si possono, 150 euro come somma indicativa, questo lo ha reso minimamente, ha creato un minimo di consapevolezza che forse quei sontuosi pacchi regalo, mi ricordo i servizi delle Iene, che andavano a certi dirigenti del Ministero dell'Economia, quelli che firmavano i mandati di pagamento, questi sontuosi con caviale, che sicuramente molto super, champagne, molto superiore ai 150 euro, forse parcheggiati lì a decine nell'anticamera del dirigente non erano opportuni. Quindi presumo adesso vengano consegnati a casa, direttamente a casa. Presumo, posso presumere. Quindi ecco, questo è quello che hanno prodotto i codici di comportamento, come massimo degli effetti. Allora, cosa si può fare? In quel libricino che abbiamo scritto con il mio collega bolognese Lucio Picci, abbiamo proposto un approccio zen alla lotta alla corruzione. Cioè abbiamo detto che per combattere efficacemente la corruzione bisogna smettere di preoccuparci della corruzione, cioè guardare alle cose importanti. Che cosa vogliamo? Vogliamo una pubblica amministrazione che offra appunto la trasparenza, non la trasparenza vera, che sia leggibilità del dato, che sia fruibilità del dato, cioè che rende i dati trattabili. Ma che serve mettere i bilanci in fogli di PDF o in fogli immagine non leggibili? A cosa serve? Che chiunque voglia utilizzarli per fare un minimo di comparazione deve perdere ore e ore a ricopiarli? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, queste cose elementari, che chiunque abbia competenze che esulano dalla conoscenza delle norme e delle disposizioni legislative, conosce, perché sono, io direi, anche una conoscenza comune, soprattutto tra le giovani generazioni. Quindi rendere leggibili i dati, quindi non soltanto mettere a disposizione, ma renderli anche utilizzabili. E poi ancora, investire nella formazione, dicevi, etica. Io direi nello spirito di corpo, nello spirito di servizio del dipendente pubblico, che naturalmente non può che basarsi su un processo di costruzione di cerchie di riconoscimento del valore positivo del servizio pubblico, e che nascono in tanti luoghi di lavoro, in tutti i luoghi di lavoro del dipendente pubblico, che devono essere incoraggiati anche dall'alto, non possono sempre essere frutto di un processo spontaneo, e si basano anche su un percorso di formazione. La scuola: vuoi combattere la corruzione, raddoppia, triplica la spesa nell'istruzione pubblica. Non ottiene un risultato domani, non lo ottiene neanche tra 5 anni, ma tra 20 anni ha una generazione di cittadini che in qualche modo hanno una maggiore consapevolezza dei propri diritti, per citare alcuni esempi. Poi nell'approccio Zen, dai più potere alle donne, che questo dato miracoloso che noi osserviamo in tutte le ricerche, che dove ci sono più donne al potere c'è meno corruzione, ci sono varie teorie che lo spiegano, ma noi, quale che sia la teoria che valida, prendiamo il risultato, quindi favoriamo, incoraggiamo la presenza femminile nei luoghi di potere e non soltanto nella pubblica amministrazione, per citare alcuni esempi tra i molti possibili. Quindi guardiamo le cose importanti. Quindi vogliamo una società in qualche modo popolata da cittadini più consapevoli dei propri diritti, vogliamo una pubblica amministrazione che sia veramente una casa di vetro e che quindi permetta a questi vetri di essere letti da chi si trova dall'altra parte. Quindi questo vogliamo per vivere una società, diciamo, più giusta e più degna. Ho preso 4 caffè, si vede. Allora, buongiorno a tutti, io non mi azzardo a rispondere. Quello basso, quello più basso. Sono Pierpaolo Romani, sono in sostituzione di Francesco Vignola, che segue la formazione di avviso pubblico, che è ammalato e quindi non ha potuto... Ha mandato la giustificazione. Non ha potuto essere presente. No, dicevo, non mi azzardo minimamente a rispondere alle tue domande, avendo Alberto a mio fianco, perché... Alberto, insomma, è anche componente, tra le varie cose, della commissione consultiva di avviso pubblico, che è il comitato scientifico di avviso pubblico, che mette insieme delle persone che hanno competenze diverse e che aiutano, cercano di aiutare la nostra associazione a programmare una serie di attività. Quindi non vi azzardo ad aggiungere niente, anzi di Alberto volevo segnalarvi questo libro, Lo Zen e l'arte della lotta alla corruzione, spero che ci sia qui in biblioteca, se no lo raccomando a voi, ma vi segnalo anche che è uscito nel 2012 L'Atlante della corruzione per l'edizione Gruppo Abele, che è un altro libro molto importante e molto interessante a proposito di formazione. Ecco, io vi segnalo concretamente due titoli fra i vari. Ah, chiedo scusa, se parlo con questo? Sì, ah, ecco. Quello è direzionale, no. Okay. È spettacolare. Perfetto. Ottimo. Allora, dicevo, vi segnalo anche questo libro, il professor Vannucci, L'Atlante della corruzione, quindi sono due strumenti concreti che magari oltre al pomeriggio di oggi poi vi potete utilizzare per approfondire una serie di questioni, di suggestioni che per ovvie ragioni, per limiti di tempo, non si possono fare. E, sentendoci con il professor Vannucci, ecco, l'idea di non fare, avete visto, slide o quant'altro, era proprio sapendo che siete dipendenti pubblici, so che ci sono dei liberi professionisti in sala, persone che insomma operano anche in ambienti al di fuori di quelli comunali, per esempio, se non ricordo male, persone che si occupano della gestione di borse di studio universitarie, architetti e quant'altro, era un po' calare l'argomento di oggi sulla vostra realtà, sulla vostra quotidianità, perché chi è che dirà che non è contro la corruzione, che vuole la trasparenza, viva l'etica, eccetera. Siamo eccetera, tutti eccetera. Per la sostenibilità, per la trasparenza, contro la corruzione, siamo tutti. No, cioè, sono quei temi su cui c'è un accordo per la mamma, tutti sì, vogliono bene la mamma, per la pace del mondo. Sì, ragionare proprio nei termini più oggettivi possibili. Ecco, io ragiono, faccio questo pensiero nelle ultime settimane, si arriva a cambiare uno scenario politico, a cercare di consolidarlo, sul fatto che dobbiamo evitare un aumento di 23 miliardi di IVA e il nostro paese nell'ultimo rapporto del Consiglio d'Europa sul VAT cap, cioè tra quanta IVA dovrebbe essere pagata e quanto effettivamente viene incassata, è al primo posto in Europa con 33,5 miliardi di euro evasi. Oppure l'Istat, io ecco, vi scuserete, ma sono abituato quando magari parlo a fare delle citazioni o di libri o di rapporti, perché sono convinto che le informazioni ci sono in giro e quindi bisogna cercare un po' di raccogliere, di raggrupparle, di analizzarle e di provare a leggere oltre il codice penale quello che sta succedendo. Ecco, l'Istat due settimane fa ha pubblicato l'ultimo rapporto sull'economia non osservata, dentro la quale c'è anche l'economia sommersa e l'economia criminale. 211 miliardi di risorse sottratte al gettito erariale, di cui circa 16 di natura criminale, le altre sostanzialmente derivanti da evasione e da elusione fiscale. E questi sono numeri importantissimi, perché recuperano solo la metà, voglio dire, il nostro paese svolterebbe da questo punto di vista, però ti dà anche l'idea, secondo me, che quando parliamo di questi temi devi fare i conti con la cultura del nostro paese. E io mi sono stampato un po' di cose, poi se volete le lascio qui, a parte i libri, i giornali, perché una delle cose che per l'attività che svolgo faccio, di buon mattino leggo subito i giornali. E quando recentemente è morta una persona che vorrei ricordare qui, che è il dottor Borrelli, che è scomparso recentemente, Francesco Saverio Borrelli è stato il procuratore di Milano, il coordinatore del pool che portò avanti l'inchiesta Mani Pulite, che era un signor magistrato, voglio dire, è un cittadino per me esemplare, perché aveva il senso della misura e della coscienza del potere che maneggiava. Ecco, pochi giorni prima di morire, questa è un'intervista uscita su Repubblica, fatta a Gherardo Colombo il 21 di luglio, intitolata Avanti contro la corruzione, la sfida non è finita, è quello che Alberto Vannucci vi ha detto, secondo me è perfetto. Calca pennello, Borrelli disse a Colombo: sono consapevole che quando la cultura, cioè la tolleranza della corruzione, e le leggi confliggono, a rimetterci sono queste ultime. Ecco, allora, se abbiamo un'idea delle regole come un qualcosa che impedisce piuttosto che un qualcosa che dà la possibilità di fare, voi capite che passiamo da una logica di, più che di legalità, di responsabilità, a una logica di furbizia, a una logica di tolleranza. Anzi, sei ben, forse meglio visto se riesci a fare delle cose che sarebbero vietate, ma tu riesci comunque a eluderle o ad evaderle, e quindi hai anche un consenso sociale. Noi, come avviso pubblico, io mi limito a raccontarvi la nostra piccola esperienza, perché non mi sento di fare in coscienza altro oggi. In un piccolo comune, per darvi l'idea, la nostra rete è fatta di quasi 450 enti adesso, 10 regioni, tra cui l'Emilia-Romagna, che ringrazio, l'assessore Mezzetti, il nostro vicepresidente nazionale, e c'è un ufficio, quindi ringrazio la presenza delle persone che sono qui questa sera, di Gian Guido, e l'Emilia-Romagna è la terza regione per numero di aderenti nella nostra rete. Ci tengo anche a dire che, avviso pubblico, questa rete di comuni, di province, di regioni, di unioni di comuni, non è nata al sud, è nata proprio nell'Emilia-Romagna, è nata nel Modenese, a Savignano sul Panaro, quando proprio per far fronte a quel debito pubblico che è esploso anche grazie alla corruzione, si decise che bisognava che certi servizi venissero esternalizzati. Ecco, nell'esternalizzazione del servizio di pulizie di quel comune e di qualche comune limitrofo, il sindaco, che era una persona che era rimasta colpita dagli eccidi di Capaci, di Via D'Amelio e quant'altro, comincia a organizzare delle cose nel suo comune, comincia a interessarsi, fanno questo bando, gli viene un sospetto, va da un prefetto che arrivava da un'esperienza importante del sud, gli si accendono delle lampadine, insomma, su 5 offerte arrivate, c'erano due ditte legate ai casalesi. Ma vi parlo del 93-94, avviso pubblico nasce il 22 maggio del 96, e vi dico, adesso non ce l'ho qui, ma magari lo portiamo e lo doniamo alla biblioteca, noi abbiamo fatto 2 anni fa il libro per i 20 anni di avviso pubblico. E Massimo Casolari, che era questo sindaco, racconta come il consenso sociale verso questi temi era profondamente ostile, perché si diceva che parlare di mafia in Emilia Romagna si dava una cattiva immagine, si danneggiava l'economia, cioè non si faceva un'opera proprio positiva. Poi avete visto, insomma, tutto quello che negli anni successivi è venuto fuori. Quindi l'idea sulla quale nasce avviso pubblico è proprio quella che se c'è una criminalità organizzata, una corruzione organizzata, provare a costruire un'azione di promozione di legalità organizzata sul versante degli enti locali. Perché vi dico questo? Nell'ultima relazione della Direzione Nazionale Antimafia che abbiamo raccontato sul nostro sito, io vi invito a visitare il nostro sito, che è www.avvisopubblico.it, non fosse altro perché abbiamo una sezione chiamata documentazione, suddivisa per aree tematiche, una di queste sulla corruzione, dove trovate leggi, regolamenti, studi, sitografie, bibliografie, cioè abbiamo cercato di costruire contenitori per fare in modo, quello che diceva Alberto Vanucci poco fa, che chi opera nella pubblica amministrazione sia formato, conosca le cose e soprattutto poi, magari una volta che le conosce, le diffonda. Ovvero, se tu, grazie ad avviso pubblico, magari ti porti a casa qualche cosa, avviso pubblico l'abbiamo costruita anche perché chi fa delle cose le possa portare e mettere a disposizione degli altri, tipo le buone, cosiddette buone pratiche, no? Rispetto ad esempio alla costruzione dei piani anticorruzione, ci sono comuni che cercano di andare veramente oltre l'adempimento burocratico, perché studiano modelli organizzativi degli uffici, ad esempio, studiano modalità di coinvolgimento dei dipendenti, cioè studiano delle condizioni di premialità, perché questo è un paese che deve premiare quelli che dovrebbero fare normalmente quello che le norme prescrivono. E quindi, ecco, quello che noi cerchiamo di fare è proprio questa sorta di organizzazione della conoscenza, della formazione sul versante della promozione della cultura, verrebbe dire della responsabilità più che della legalità. E quindi, vi dicevo, cerchiamo di fare tutto questo. Noi arriviamo ai primi di settembre in un piccolo comune di 3.000 abitanti che si chiama Gazzoldo degli Ippoliti, che tutti conoscono perché è la sede dell'industria Marcegaglia. Lì c'è un sindaco giovane che da 5 anni porta avanti una rassegna che si intitola Raccontiamoci le mafie. Il professor Vannucci e il professor Picci sono venuti a presentare il loro libro, ma noi quest'anno abbiamo ragionato sul tema del consenso sociale verso le mafie e la corruzione, che è un trend in crescita rispetto al consenso sociale verso la politica e le istituzioni, che è in declino. Cioè, questi sono fattori di cui dobbiamo tenere conto. Sempre meno gente si fida di chi vota, e il voto, più che un diritto, è interpretato come un favore, la possibilità di ottenere qualcosa in cambio di qualche cos'altro. Ecco, allora, tu puoi fare tutte le leggi che vuoi, ma se le regole sono più un fastidio, percepite come un fastidio, un ostacolo, che una possibilità, allora tante cose vengono giustificate. Noi siamo il paese dove si parla di evasione per necessità. Cioè, anche qui cito, per esempio, rispetto al mondo delle imprese, un titolo che mi ha particolarmente colpito negli ultimi giorni, sempre Repubblica, 22 ottobre, il procuratore di Milano, Francesco Greco, che è una persona che da anni si occupa di criminalità economica, e è quello, per dirvi, che è riuscito col suo gruppo a far pagare tasse importanti a Google, Apple, a questi giganti che hanno una forza non solo economica ma sempre di più politica, sono i più grandi influencer, io credo, attualmente presenti sulla terra. Lui dichiara: le imprese investono più in tangenti che in innovazione. E difatti, se vi leggete i libri del professor Vannucci e di Picci, scoprite che i paesi più corrotti sono quelli dove si investe meno in innovazione, dove si investe meno in istruzione, dove, rapporto Svimez presentato fresco fresco ieri, in 10 anni 2 milioni di giovani dal sud vanno via. Dici dal sud, dal nord? No, vanno proprio fuori. E quindi perdi, come posso dire, delle potenzialità e delle energie di rinnovamento anche sociale, che vuol dire ricambio nella politica, ricambio nelle università, nelle scuole e quant'altro, che senza, secondo me, questo humus, tutte le cose di cui stiamo parlando oggi, per prevenire, ecco, noi come Avviso Pubblico teniamo molto al pre, cercare di arrivare prima che poi arrivino la magistratura e le forze dell'ordine, che comunque il loro mestiere lo stanno facendo e sembrano gridare nel deserto. E lo facciamo perché, vi dicevo, sul sito di Avviso Pubblico abbiamo questo spazio che, oltre a quello di documentazione, è l'osservatorio parlamentare, cioè noi ogni giorno monitoriamo quello che succede nelle Camere, sia di lavori di aula, quindi le discussioni, le interpellanze, le interrogazioni e quant'altro, si lavori nelle commissioni d'inchiesta. Questo vuol dire soprattutto la commissione antimafia e la commissione sul ciclo illecito dei rifiuti. Bene, l'ultima relazione della DNA presentata al Parlamento dice: guardate che oggi bisogna guardare soprattutto ai comuni, non perché nel rapporto mafia e politica si siano dimenticati dei parlamentari, che servono, ma si guarda alle regioni e ai comuni. Alle regioni perché lì ci sono tanti soldini. E dove sono tanti soldini? Nella sanità, per esempio. E difatti tanta roba di corruzione, tu ce lo insegni, per esempio la vai a trovare lì dentro, in questo comparto. E scopri non solo a nord, ma anche al sud, scusate, ma anche al nord, penso a Pavia, ad esempio, l'inchiesta Crimine Infinito, scopri che insieme alla corruzione pian piano si accompagna sempre di più la presenza di organizzazioni mafiose, che entrano attraverso la corruzione in certi sistemi, quindi diventano soggetti che siedono ai tavoli, che non spaventano nessuno, anzi hanno una sorta di legittimazione, e dipende. Ci sono studi, per esempio, importanti del professor Rocco Sciarrone su questo e di altri. Non è che decidono sempre loro imponendo le cose, ma a volte sono garanti e regolatori di patti. La tangente si deve pagare, si diceva prima. Perfetto, entra il mafioso. Se qualcuno si alza e dice: ma forse io non vorrei, il 416 bis ci spiega benissimo come poi si convince qualcuno che invece che deve pagarla, gli si dice anche la percentuale e la persona a cui questa quota va pagata. Ma la DNA ci dice: occhio, perché è lì? Perché poi, per esempio, in una regione non solo ci sono tanti soldi, ma nelle regioni c'è la possibilità di fare le leggi. Ma le leggi si possono anche non fare. E si possono fare bene, si possono fare male. Per noi Emilia Romagna è un, da questo punto di vista, un punto di riferimento. Lo dico non perché sono qui, perché è un dato oggettivo. È la prima regione che ha cercato di fare una legge sistemica, un testo unico, che guarda caso poi è stato preso ad esempio da altre regioni, dalla Calabria. E quindi, voglio dire, il tentativo di fare un po' di ordine è, credo, una delle cose importanti. Nei libri, ripeto, che io mi sono portato dietro, ma ci tengo a sottolineare, non perché c'è Alberto qui, perché sono strumenti importanti, viene raccontato come l'eccessiva normazione nel nostro paese, per esempio, è foriera di dinamiche corruttive. E quindi avere tante norme, e magari sparse, e magari anche non scritte bene, per cui le devi interpretare, questo aumenta i tempi di risoluzione dei problemi, le lungaggini, le conflittualità magari fra organi dello Stato, e chi ci rimette alla fine, ecco, io quello che ho imparato e che cerchiamo di dire a tutti, guardate che mafia e corruzione alla fine li pagano in termini economici, in termini sociali, addirittura in termini di esistenza umana, perché la corruzione, ho imparato anche questo, uccide. Andatevi a vedere, io non entro nel merito, lui lo sa meglio di me, la vicenda della casa dello studente dell'Aquila, ad esempio, o i terremoti ad Haiti, ok? Ecco, noi cerchiamo di provare a capire queste dinamiche e questi fenomeni. La DNA ci dice questo. I comuni invece sono interessanti perché con una serie di riforme, ad esempio quello del titolo quinto, poteri decisionali e risorse sono state trasferite dal centro alla periferia. Il rapporto amministratori sotto tiro, che vi citava poc'anzi il professor Vannucci, è per noi un indicatore di questo tipo, così come un indicatore, noi l'abbiamo fatto perché, vi devo dire, come poi un'altra roba che si chiama carta di avviso pubblico, dove lui ci ha dato una grande mano, sono nate non per un'esigenza di dire sono contro la mafia, ma sono nate da un'esigenza di dire per favore mi date uno strumento che dimostri concretamente che non siamo tutti uguali, perché questa è un'altra, come posso dire, vulgata pseudoculturale che danneggia tantissimo le persone per bene nel nostro paese e che vogliono fare e fanno delle cose importanti e interessanti nel nostro paese. E allora capisci anche perché avviso pubblico ha fatto ai primi di luglio, presentato alla Camera dei Deputati, un rapporto sui comuni sciolti per mafia. Voglio dire, 249 comuni sciolti da 91 ad oggi. Qui avete avuto Brescello. In Veneto probabilmente fra qualche settimana sciolgono Eraclea in provincia di Venezia. Abbiamo avuto scioglimenti in Liguria, in Piemonte, in Lombardia. Lazio. Nel Lazio. Cioè, questo ti dà la dimensione di come il rapporto mafia e politica non sia più concentrato. Storicamente bastava leggersi la relazione, per esempio, del 78 di Pio La Torre. La mafia è un problema di classi dirigenti, non di quattro straccioni. No, per capire come il metodo mafioso anche, io vi invito a leggere, dopo ve lo lascio, l'articolo del dottor Pignatone di due giorni fa sulla Stampa, no? Mafia, perché ci sia il mafioso, non è che ci devono essere per forza dei meridionali. Io arrivo, magari lo sentite nel mio accento, dal Veneto, dove tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 90 ha operato un'associazione chiamata Mafia del Brenta, fatta da 500 veneti. Non c'era un meridionale, c'erano tutti veneti che parlavano dialetto veneto e che ovviamente avevano rapporti con Cosa Nostra e con la Camorra, con l'Andrangheta e con pezzi anche di trafficanti d'armi dei Balcani, ok? E trattavano, ma quella era, pensate, a metà degli anni 90, quindi le indagini sono partite quando era da pochissimo in vigore il 416 bis, ok? Ecco, in Veneto abbiamo anticipato quella che è l'ex mafia capitale, mi viene da dire, ma per darvi l'idea di quello che è un territorio, se tu parli del nord-est, nord-est è, almeno fino a qualche anno fa era studiato nelle business school, no? Piccolo e bello, facciamo, cioè. Poi invece stiamo scoprendo che forse scioglieranno probabilmente un comune e scopri anche che, a proposito di corruzione e di mafie, c'è una grande fetta che è quella del mondo dell'imprenditoria. E scopri spesso che la cerniera tra questi mondi sono i liberi professionisti o persone che operano nel mondo delle banche. E scopri anche dinamiche nelle quali ci sono persone che ci finiscono o diciamo così, per disperazione, non ho più soldi, non li trovo nel circuito locale, nel circuito legale, scusate, e chi è che ti porta nelle mani terribili di chi non è che ti presta soldi per far soldi, ma ti presta soldi per fregarti l'azienda, per poi cominciare attraverso l'acquisizione della tua azienda 2, 3, 4, controllare il territorio e quindi ad avere anche il controllo della vita sociale e quindi il controllo del consenso elettorale. A Eraclea il sindaco che lo ha messo ha vinto per 81 voti che gli sono stati forniti da un signore incarcerato per 416 bis. Quindi quei pochi voti fanno la differenza, ma il cambio qual è? Il cambio è che io ti faccio aprire un'agenzia di giochi nella piazza principale del paese. E qualcuno deve recuperare un credito, ma perché devo andare dall'avvocato, dal giudice o quant'altro? Te lo fornisco io. Cioè l'idea che il consenso sociale, io torno a dirlo, è quello di pensare che grazie a questi mafiosi e questi corrotti i problemi si risolvono più in fretta che attraverso la percorrenza delle vie legali. La storia ci insegna che i mafiosi non risolvono i problemi, te li creano. E se ci sono quegli imprenditori vittime, ci sono imprenditori che invece vogliono, illudendosi che mettendosi con i mafiosi questo possa accadere, aumentare i loro profitti. Anche qui abbiamo storie di persone dalla Perego di Milano ad alcune aziende del Padovano e del Veneziano che queste persone sono andate a finire praticamente in disgrazia totale, cioè gli hanno mangiato tutto, oltre ad averli ridotti in uno stato psicologico terribile. Ecco, io credo che questa dimensione del consenso sociale e della dimensione culturale non sia una cosa secondaria, no? Cioè, delle volte quando facciamo dei percorsi di formazione cerchiamo di farne tanti. Io ringrazio Alberto perché è un compagno di viaggio, così come Gian Guido. In Veneto abbiamo fatto la formazione in tutte e 7 le province ad amministratori locali, dirigenti, funzionari pubblici e persone della agenti e comandanti della polizia locale. Anche qui permettetemi una parentesi, per parlare di mafia e sicurezza, per far capire che tra questi due grandi mondi, compresa la corruzione, non ci sono dei compartimenti stagni, ci sono dei grandi scambi, perché tutto il tema del traffico di droga, la gestione della prostituzione, l'occupazione di suolo pubblico, il tema delle discariche, dei rifiuti tossico-pericolosi e quant'altro, si intersecano tantissimo, perché certe cose tu scopri che sono possibili perché chi opera in un ambiente pubblico o comunque in un ambiente privato ma ha il potere di intervenire, di indirizzare delle cose, non si fa scrupoli. Ma a volte noi magari pensiamo a delle tangenti o dei benefit illegali qualsiasi, ma c'è gente che si vende per pochissimo e questo che ti fa anche riflettere, no? Medici che hanno firmato ricette per vendere un farmaco e gli hanno regalato una borsa di pelle di firma. O persone che hanno, non so, hanno fatto il capodanno in un'isola bellissima, o qualcuno gli hanno procurato una escort, qualche d'un altro sostanze stupefacenti. Cioè, però adesso qui c'è un bellissimo passaggio nello Zen e l'arte della lotta alla corruzione, quando Picci e Vannucci scrivono: beh, uno che commette un atto di corruzione non è semplicemente che sottrae delle risorse all'erario, genera delle dinamiche che hanno poi delle conseguenze molto più grandi su tutta la società. Allora capite che se tendiamo a preferire la furbizia all'onestà, all'etica della responsabilità, io penso che si ragiona più in termini di io che di noi. Quindi guardi più a degli interessi particolari che degli interessi generali. Si salvi chi può, intanto io mi metto al coperto di Riffo di Raffa, poi chi verrà dopo di me si arrangerà. Ecco, io credo che invece la nostra Costituzione, che è la nostra bussola di riferimento, dice esattamente l'opposto. Don Ciotti è solito ripetere, ma anche altri, che la corruzione è il primo testo antimafia. Io credo che sia vero questo, perché se uno si legge per esempio l'articolo 54 della Costituzione, l'articolo 54 ci dice che i cittadini, cioè tutti, devono essere fedeli alla Repubblica, alla Costituzione e alle sue leggi. E mi rammento sempre, ogni volta che la leggo, l'attenzione che i costituenti hanno avuto non solo a quello che scrivevano, ma si sono preoccupati che quello che scrivevano fosse comprensibile. Tant'è vero che fecero fare un'analisi del testo, no? Degli specialisti, perché adesso devono capirlo tutti il testo. Allora, essere fedeli alla Repubblica, alle sue leggi, e chi opera, chi ha un incarico pubblico, lo deve fare con disciplina ed onore. Articolo 97, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. I dipendenti pubblici sono ad esclusivo servizio della nazione e della Repubblica. Cioè, non ho mica scritto io ste robe qui, neanche il professor Vannucci. L'hanno scritto persone che arrivavano di culture diverse, che arrivavano da un periodo storico drammatico, ma che per senso di responsabilità hanno trovato dei punti di convergenza. Allora, io credo che sul tema della prevenzione, oltre che del contrasto alla corruzione, l'etica, la trasparenza, tutto quello che volete, se non hanno una cultura costituzionale solida alla base, saranno sempre deboli. Se la politica diventa tutto e subito, se la politica diventa visibilità, mi scuso se posso apparire che dico delle cose scontate, ma vorrei che percepiste che non è così, voi capite che cambia. Perché se tu vuoi ottenere dei risultati, devi ragionare a medio-lungo termine, quindi devi fare delle scelte che magari oggi qualcuno ti dice no, non vanno bene, perché, però devi avere il coraggio di presentare un'alternativa. Perché, insomma, viviamo in un paese, ma tiriamo via le nostre idee, proviamo a ragionare il più oggettivamente possibile. Ma perché io mi devo sentir dire, noi 2 anni fa abbiamo premiato dei comuni col premio Pio La Torre che hanno fatto un interessante lavoro di recupero di evasione fiscale. Comune come Formigine ha recuperato un sacco di soldi, per esempio, parte dei quali, o Corsico, provincia di Milano, qualche anno fa, prima di questa sindacatura, che li hanno messi per esempio sui servizi sociali. Perché se tu garantisci diritti come Stato, il consenso viene dalla tua parte. E quindi tu dimostri che puoi fare delle cose, puoi migliorare la vita delle persone. E mi devo sentire dire, fresca fresca anche domenica, mentre leggevo i giornali, no, non si deve fare la lotta all'evasione fiscale oltre un certo punto perché si perdono voti. Allora meglio il condono. Capite però che di condono in condono, alla fine io ho in mente anche i miei figli, semplicemente, non guardo in casa di altri, ma perché io ragiono, se ho ricevuto la possibilità, io arrivo da una famiglia molto semplice, ho potuto fare le mie scuole, il mio percorso, studiarmi, laurearmi proprio in questa bellissima città, nella vostra università, fare delle esperienze professionali interessanti, fare quello che mi piace, per fortuna, nella mia vita, con le mie forze, punto. Senza mai chiedere niente a nessuno. Ma perché io non devo fare in modo che i miei figli possano fare il mio stesso percorso e magari faticando un qualcosina di meno? Ecco, secondo me, se manca questo, manca un pezzo importante. Non voglio farvi la morale, vi prego di credermi. Ma quando anche sento dire l'esempio deve venire dall'alto, io dico sì, però non sono così d'accordo o vado in quella direzione. Io penso che l'esempio deve venire anche dal basso. Cioè, noi due, mi permetto di usare il noi perché siamo grandi amici, se tu devi venire a parlare ad una platea di persone, lasciate stare pochi o tanti, ma quelle persone hanno deciso di investire 2 ore del loro tempo per venire probabilmente a capire un qualcosa di più che magari domani nella loro professione, nella loro quotidianità, li può smuovere a fare una piccola cosa diversa da come hanno fatto prima. Cosa fa uno? Si preparerà. Anche se sa tanto di quel pezzo lì, si prepara, cerca di acquisire informazioni, non per dire adesso avete 2 bravi, chissà che, anzi ascoltatene degli altri, magari hanno idee diverse dalle nostre, ben vengano, se no il monopensiero è un po' difficile, il pensiero unico da digerire. No, ecco. E allora che cosa fai tu dal basso come avviso pubblico? Dici, ci vorrebbe l'esempio, sì, ma i politici sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali. C'è il rapporto amministratori sotto tiro, per esempio, che ti racconta di persone perfettamente sconosciute. Se io vi dico Pierpaolo D'Arienzo, qualcuno potrebbe dire, ma chi è questo? Boh, si chiama come te al limite. Ma io vi dico che è il sindaco di Monte Sant'Angelo, che ha 33 anni, che è arrivato dopo uno scioglimento di un consiglio comunale importante, che l'hanno minacciato 4 volte, addirittura una hanno fatto la manifestazione e 2 ore dopo gli hanno bruciato la porta del comune. E questa persona va avanti. Potrei citarvene tantissimi altri. A un certo punto abbiamo detto, proviamo a fare una cosa. Io ringrazio pubblicamente Alberto ancora una volta, perché l'idea è nata a Pisa, dove lui è insegna e direttore di questo importante master. Proviamo a creare un codice di comportamento, ma non all'acqua fresca, perché avevamo visto, no? Soprattutto tu ci avevi fatto vedere, chi è che ti dice appunto bisogna essere contro la mafia, contro la corruzione. Abbiamo detto proviamo a lavorarci, un anno di lavoro, diverse persone messe attorno a un tavolo, docenti universitari, funzionari pubblici, amministratori, studenti, 10 bozze, me le ricordo ancora, 23 articoli che i regali, ti ricordi quando l'avevi sì, messo? Sì. Ci ridevano dietro, occhio, la carta di Pisa, così si chiama, poi si è andato un giorno a Livorno, abbiamo dovuto andare sulla carta di viso pubblico 2 anni dopo, abbiamo messo 100, un limite di 100, 150, era 100, 100. 100 euro, ci ridevano dietro, ma voi siete... Era febbraio 2012, esatto. La legge Severino anticorruzione sarebbe arrivata a dicembre del 2012, quindi arriviamo prima. La cosa poi bella è che alcune persone, grazie sempre al professor Vannucci, che ci hanno dato una mano a scrivere quella carta, hanno dato una mano a scrivere la legge Severino, quindi... Sì. Non c'è bisogno di menar vanto, vi prego, però questo ti dà il senso di quello che fai, no? Puoi essere utile al paese, benissimo, non importa che ti citino o meno, l'importante è che quello che è nato in un piccolo gruppo di persone che hanno provenienze diverse, esperienze diverse, possa generare un interesse utile per il nostro paese. E 23 articoli, sono 23 articoli che ti richiedono, se li sottoscrivi, poi di mettere in pratica dei comportamenti che il cittadino può verificare. Ma noi abbiamo scritto, cioè loro hanno scritto, non voglio prendermi i meriti che non ho, per esempio degli articoli in tema di clientelismo, in tema di conflitti di interessi, in temi di rapporti con l'autorità giudiziaria. Abbiamo inserito dei divieti e delle sanzioni, non da codice penale ovviamente, ma dall'ammonimento fino a ritirare le deleghe. E ci dicevano, ma chi vuoi che sia che ritira le deleghe? Un caso c'è stato, non altro, ma uno c'è stato. In una provincia, quella di Pisa, a un certo punto un assessore è stato indagato e rinviato a giudizio per reati gravi, abbiamo scritto, non per cose che magari sappiamo che possono succedere facendo l'amministratore. Lui non voleva dimettersi, il presidente di allora disse no, tu hai firmato la carta di Pisa e ti tiro via io le deleghe. E questo è successo. Allora, l'idea anche... di dare un esempio dal basso e non solo di aspettarlo dall'alto, ecco, da questo punto di vista. Io non vorrei farla lunga perché non credo, ecco, credo che oggi sia importante ascoltare il professor Vannucci. Quello che mi sta a cuore trasmettervi è che come avviso pubblico noi cerchiamo di mettervi a disposizione informazioni, documentazione, formazione, cercando di fare rete. Ecco, quindi prendete, ma se avete qualcosa da portare, ecco, per noi è un elemento importante, sapendo che il nostro approccio è duplice. Si va al merito delle questioni e l'approccio è di carattere istituzionale. Quindi, quando noi siamo intervenuti sullo sblocca cantieri, non lo abbiamo fatto da soli, abbiamo detto questa norma non va. Ma perché è stata letta, è stata studiata? Poi hai il procuratore nazionale antimafia che dice questo, l'ANAC che dice questo, persone che da una vita si occupano di questi temi che ti dicono questo, insomma il buon senso dovrebbe dire fermiamoci un attimo. Ma se l'idea è bisogna fare, o come scrive ieri il procuratore, l'ex procuratore di Roma, ora presidente del Tribunale del Vaticano, e guarda caso Papa Francesco è uno di quelli che negli ultimi anni di più ha parlato dell'importanza della corruzione, addirittura nelle omelie di Santa Marta, che è una cosa interessante da ascoltarsi, le messe che lui fa la mattina presto, ci ha scritto addirittura un libricino sul tema della corruzione, e qui me l'ero segnato, citato, sì. In pagina 200 c'è una citazione interessante di Papa Francesco. Ecco, l'idea è proprio quella di fare in modo che qualcosa cambi, partendo però anche dal contributo che può dare ciascuno di noi in questo senso. Ovviamente, ecco, quando noi abbiamo fatto il comunicato sullo sblocca cantieri, siamo andati a dire quello che non andava. E attenzione, al governo di allora non è che abbiamo detto solo avete fatto una legge brutta, bla bla bla. Abbiamo chiesto, fatto anche una proposta. Per favore, se volete ripensarci, avete le istituzioni di competenza, ma queste associazioni, Avviso Pubblico, Libera, Acli, Arci, e tutti e tre i sindacati, questa rete, come si dice, è a disposizione senza presunzione per dare una mano. Vi dico l'ultima, perché sono fatti questi, con questa logica di rete, io, noi quando Renzi perse il referendum, sapete che si rischiava, un'ipotesi era che si andasse a votare, che tutto finisse. Grazie all'osservatorio parlamentare noi avevamo visto che c'erano 6 leggi in dirittura d'arrivo, serviva un passaggio e sarebbero diventate leggi. Una era sugli amministratori sotto tiro, quel rapporto ha prodotto una commissione parlamentare d'inchiesta, ci sono anche funzionari pubblici, impiegati pubblici lì dentro citati, non solo amministratori. Una commissione parlamentare d'inchiesta e l'approvazione di una legge, la 105 del 2017, che prevede maggiori misure di protezione e la possibilità, innalzando un pochino le pene, di far usare agli investigatori le intercettazioni telefoniche, cosa che prima non era possibile, quindi molti la facevano franca rispetto alle minacce degli amministratori. C'era da far diventare legge il 21 marzo, giornata nazionale della memoria dell'impegno e ricordo vite di mafia, che qui a Bologna abbiamo avuto più di 100.000 persone qualche anno fa presenti. C'era una legge sui testimoni di giustizia. Ecco, anche qui, io vi ho citato, perdonatemi, faccio solo 2 secondi questo passaggio, vi ho citato i dati, l'Istat, eccetera, eccetera. L'altro giorno, se andate sul sito nostro lo trovate, c'è stata l'audizione in commissione antimafia del nuovo ministro dell'interno, il ministro Lamorgese. Sapete quanti sono i testimoni di giustizia in Italia oggi? Sono 52. Cioè 52 persone a fronte di tutto quello che emerge dalle inchieste, 52 persone hanno avuto il coraggio di dire delle cose. E queste 52 persone, tra l'altro, stanno avendo problemi rispetto alla protezione, perché lo Stato dice che non ci sono risorse per garantirgli il cambio di identità, il fatto che i loro bambini possano andare in una scuola sicura, il fatto che possano andare in un pronto soccorso. Questi sono i problemi pratici. 60 milioni di persone, 52 testimoni di giustizia, per i quali non si trovano delle risorse, con 33,5 miliardi di IVA evasa, o 211 di economia non osservata. Ecco, allora, se uno mette insieme i pezzi, io do ragione a quello che veniva prima detto rispetto a quello che è contenuto anche nel libro ultimo, Lo Zen e l'arte della lotta alla corruzione, che o si decide anche di fare e di scommettere anche politicamente, nel senso più nobile del termine, una politica che guardi medio-lungo, o se guardiamo al breve, diventa forse per qualcuno conveniente anche fare dei patti, nella convinzione che quei patti portino dei voti. Perché c'è chi va in campagna elettorale a dire io non voglio i voti, c'è chi va in campagna elettorale a dire io non voglio più, votatemi, ecco, oppure cancelleremo l'immagine che è stata data di questa regione, di questo paese, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono messaggi subliminali che ripetuti più volte però alla fine passano. Ecco, quindi quello che noi cerchiamo di fare è questo: il nostro obiettivo è partire dagli amministratori locali, che sono, ci tengo a dire anche questo, di tutte le forze politiche in Avviso Pubblico ci sono, perché quello che vedi lavorando con gli amministratori locali rispetto per esempio ai parlamentari è che il sindaco usa prima di tutto il buon senso, a meno che non sia deviato da una parte o dall'altra. E quindi l'idea di andare a cercare il compromesso ragionevole. Ok? Allora noi dal basso cerchiamo di sollecitare il legislatore in una certa direzione, adesso rispetto alla modifica della legge sui comuni sciolti, lo stiamo sollecitando rispetto ai beni confiscati, perché i comuni si prendono l'80% della gestione dei beni che poi devono dare alle cooperative, con cui rigenerano socialità e territorialità, e quindi cerchiamo, se per concludere posso dirle, di ridurre il lamento e di aumentare l'impegno, ma che non sia l'impegno di pochi, che sia l'impegno di diversi, di diverse regioni, di diverse collocazioni politiche, ma che lo faccia in maniera organizzata e responsabile. Grazie. Ho fatto le 5:30. Cinque e mezza. Quindi. meno mezz'ora. Volevo chiedere due cose. Una è se su avviso pubblico, comunque nei dati disponibili, ci sono anche dei dati rispetto ai paesi con minore corruzione e se sono spendibili per convincere a livello culturale che magari è un modello vincente, perché oltre a mettere il dito su magari la corruzione esistente o comunque quella sommersa o prevenire, magari si potrebbe anche creare un modello alternativo e lavorando magari su paesi esteri o forse certo. Paesi anche qualche esempio positivo, sì. Assolutamente. E l'altra cosa è che forse non riuscirò a essere molto chiara perché sono anche un po' arrabbiata su queste cose, cioè i reati ambientali. Io non riesco a capacitarmi del fatto che da quanto ho saputo, ma ho molte lacune, ignoranze su questo tema, cioè c'è una sorta di depenalizzazione dei reati ambientali. Per esempio a Taranto all'indiano che hanno acquistato hanno promesso questa cosa. Infatti sono scappato. Assolutamente una cosa morale, insomma. Poi c'è un altro aspetto che riguarda sempre l'aspetto ambientale, che è forse non si può parlare di corruzione, ma di una prassi non molto corretta, che va sotto il discorso della compensazione, tipo non so, se tu mi fai questa cosa, allora poi tipo non so, un teatro oppure delle barriere fonoassorbenti, allora ti concederò di allargare la tangenziale o l'autostrada. Come se ci fosse un conflitto tra posti di lavoro e benessere ambientale. E secondo me questo potrebbe essere anche un discorso culturale, nel senso che magari un sindaco o un amministratore magari dice: se non accontento questi, calano i posti di lavoro. Adesso io sono magari ingenua nella descrizione, però era questo aspetto che volevo. Benissimo. A Taranto, quando sono stato recentemente, dicevano meglio morire lavorando con qualche soldo in tasca che restare in salute disoccupati. Anche questo è... non tutti, ma un pezzo di persone. Un pezzo di città, certamente. Raccogliamo tutte le domande, così facciamo poi un'unica... Prego. No, volevo chiedere una cosa che mi sono sempre chiesto, insomma, l'altissima discrezionalità degli organi politici in riferimento alla nomina di posizioni apicali nella pubblica amministrazione non è un fattore che espone diciamo, tutto il sistema italiano delle infiltrazioni di tipo sintetizzatore, insomma di perturbazione cioè quello che io mi sono meravigliato, insomma, un assessore nomina direttori generali all'epoca non c'era neanche bisogno di presentare un curriculum, erano a discrezione, mi ricordo, quasi assoluta, insomma, ecco, voglio dire, e i dirigenti eccetera eccetera, non è questo stesso una pregiudiziale che secondo me è sistemica, diciamo così, senza voler fare delle... Sì, benissimo, domanda molto chiara. Altre domande? Altre questioni? Mi vuoi fare una domanda? Tu, e poi ne faccio una, ci facciamo le domande tra di noi. Io volevo soltanto rilevare che io ho sempre pensato che quello che manchi è anche un sistema di controlli esterni, perché adesso andiamo avanti sempre con questi controlli interni, che ovviamente sono dei controlli che hanno dei limiti incredibili. Basterebbe operare, cioè sviluppare e organizzare dei controlli esterni non ovviamente pilotati o comunque non avvisati. Certo. In qualsiasi momento io entro e controllo, per esempio, il bilancio di un ente che sia regolare, sia chiaro, trasparente, e già potrebbe cambiare molto. Purtroppo è chiaro che la classe politica evidentemente non vuole questo. Sì, problema dei controlli, certo. Se non ci sono altre domande, ci avviamo alle risposte. Comincio io. Va bene. No, tu che gestisci il... Ne hai facoltà. grazie, caro. Grazie, caro. Allora procedo. Dunque, andando in ordine, la prima domanda sull'anticorruzione e sui modelli virtuosi. Allora, da questo punto di vista, diciamo che paesi diversi hanno imboccato traiettorie diverse nel cercare di affrontare il problema della corruzione. Anche paesi che avevano, diciamo, eredità e storie in cui il fenomeno era presente in forma, diciamo, cospicua, pervasiva. Ci sono anche storie di successi. Noi abbiamo casi che sono stati analizzati, in qualche modo portati alla luce, anche in qualche caso enfatizzati, di paesi che, come dire, sono riusciti, alcuni anche in tempi relativamente brevi, a impostare, avviare delle politiche di riforma, delle politiche anticorruzione, che hanno permesso a questi paesi di, in qualche modo, scalare le classifiche della trasparenza. Lungo archi temporali molto differenziati. Allora, ci sono due tipologie di politiche anticorruzione, diciamo, chiamiamole di successo. La prima è quella che è stata realizzata da tipicamente piccoli paesi che non hanno assolutamente alcun tipo di legame con la tradizione democratica, i cui autocrati a un certo punto, governanti più o meno illuminati, hanno deciso che per migliorare la competitività economica del sistema occorreva investire molto in un apparato repressivo che in qualche modo tirasse fuori, punisse la corruzione. E quindi hanno creato delle autorità anticorruzione che non sono come l'ANAC, che opera in chiave di prevenzione, ma che hanno una funzione repressiva, una sorta di alto garante, controllore, che va, fa delle investigazioni anche molto accurate, che inverte l'onere della prova, quindi se hai questo patrimonio e non riesci a dimostrare che l'hai acquisito legalmente, si presuppone che tu l'abbia preso tramite la corruzione, quindi ti viene confiscato, viene licenziato, quindi apparato repressivo molto, diciamo, severo. Hong Kong e Singapore sono i due esempi in cui il modello ha funzionato. E se voi andate a guardare le classifiche sulla trasparenza percepita, sull'integrità della pubblica amministrazione, vedete che questi paesi si collocano ai vertici, sono uno mi pare al quarto, quinto, uno al dodicesimo, tredicesimo posto, quindi sono messi bene sulla trasparenza. Poi un altro caso di studio interessante è la Georgia, piccolo paese caucasico, in cui i governanti, anche lì senza alcun legame, dimentichiamoci la democrazia, la partecipazione, hanno deciso che anche lì occorreva accrescere la competitività del paese, bisognava combattere la corruzione era legata alla burocrazia, hanno investito molto in una deregolamentazione del sistema, quindi hanno deburocratizzato e il paese in qualche anno ha scalato queste classifiche sulla percezione della trasparenza nella pubblica amministrazione. Ora, due considerazioni, e poi vado al modello che mi piace di più, che non è questo. Due considerazioni. La prima, questo tipo di processi di riforma prescinde completamente dalla partecipazione popolare, anzi sono riforme calate dall'alto, in cui si decide che siccome tra i costi della corruzione non ci sono soltanto le voragini nei bilanci pubblici, ma c'è una perdita di competitività, di produttività del sistema, perché si introducono all'interno di quei sistemi dove c'è molta corruzione degli incentivi sbagliati, per cui, come diceva giustamente Greco, conviene assumere servizi a soldare un faccendiere o una persona che ha i contatti giusti e le relazioni giuste, piuttosto che un bravo giovane competente che ti aiuta a migliorare i tuoi processi produttivi se sei un imprenditore che lavora con la pubblica amministrazione. E questo introduce delle distorsioni sistemiche che porta i paesi più corrotti a vedere inesorabilmente calare la produttività, la competitività del sistema. Allora, in questi contesti si è deciso che occorreva combattere la corruzione. Come? Castigando severamente i corrotti. Risultati ci sono stati, appena c'è, come dire, la sensazione che appena questi governanti saranno un po' meno inclini a, come dire, operare con severità, con rigore nella lotta alla corruzione, cambia la struttura degli incentivi e la corruzione risorge come e più di prima. Questa è la preoccupazione. Il modello che mi piace di più, ai vertici di questa classifica non trovate Singapore, non trovate Hong Kong, non trovate la Georgia, la classifica sulla trasparenza trovate la Finlandia, la Danimarca, la Svezia, la Nuova Zelanda e via via scalare, altri paesi, in cui le politiche anticorruzione hanno in qualche modo, per dire, portato, e qui non nel corso di pochi anni, ma nel corso di parecchi decenni, ad attuare una serie di politiche di investimenti volti sostanzialmente a favorire un rapporto ravvicinato tra pubblica amministrazione e gli utenti dei servizi, che sono, come dire, ben consapevoli dei diritti che hanno e che sono pronti a reclamarli nei confronti della pubblica amministrazione, coloro che siano intoppi, inghippi, lungaggini, eccetera, un controllo molto forte nell'operato e, come dire, un altissimo standard rispetto a quella che è l'aspettativa sulla condotta dei propri amministratori. Io cito sempre lo scandalo del Toblerone, che non so quante volte l'avrei sentito, una vicenda che mi è stata raccontata da un collega svedese, il quale parlò di questo grande scandalo che aveva portato alla dimissione di una ministra svedese che era destinata a diventare primo ministro, che la sua carriera è stata proprio azzerata. Scandalo del Toblerone, perché lo scandalo del Toblerone? Io mi immaginavo gli appalti, le tangenti, per gli... No, dice, pensa, con la carta di credito di servizio si comprava le barrette di Toblerone, con la carta di credito di servizio. Ecco, questo è lo standard etico che si richiede all'amministratore pubblico in quei paesi. E quindi questo tipo, e tra l'altro, come dire, condotte che non erano neanche penalmente rilevanti, ma che hanno portato a una sanzione, che è la sanzione più importante, una sanzione politica, una sanzione sociale, irreversibile di fine della carriera politica. Quale amministratore pubblico oserà utilizzare in modo improprio la carta di credito di servizio quando la reazione della popolazione, della classe politica, cioè i suoi colleghi di partito, è stata tale che chi ha fatto questi piccoli, nella nostra prospettiva, abusi, viene in qualche modo eliminata dal gioco politico. Il punto qual è? Non è il valore delle barrette di Toblerone, è il tradimento della fiducia che viene riposta nell'amministratore. E nel momento in cui gli si affida la cura degli interessi collettivi, anche attraverso l'utilizzo di uno strumento, quella cosetta di plastica che si chiama carta di credito che utilizza per fini di servizio, e la utilizza impropriamente, non è il valore economico che conta, è il valore simbolico dell'atto, che in quel contesto è stato ritenuto talmente grave, detto Toblerone Affair, andatevelo a cercare, da determinare la fine della carriera politica. Questi standard come si costruiscono nella popolazione? Come vengono costruiti? E qui, come dire, la letteratura ci dice, i valori religiosi, la riforma protestante, ci hanno messo di tutto per cercare di spiegarli. In realtà, a mio giudizio, quello che noi osserviamo è che in quei paesi c'è stato nel corso dei decenni, e non a caso sono la culla del welfare, a smentire tutte le tesi che dicono che perché ci sia meno corruzione lo Stato deve ritrarsi, deve spendere poco, no, deve spendere meglio. Deve spendere meglio, in modo più consapevole, indirizzando meglio le risorse laddove sono, come dire, i destinatari, i soggetti che ne hanno maggiormente bisogno. Quindi in questo contesto l'idea che appunto vi sia da parte della popolazione, di ampie fasce della popolazione, una consapevolezza dei propri diritti, una consapevolezza proprio dei propri diritti di cittadinanza, di utenti di servizi, e che questo tipo di consapevolezza si traduca anche nelle loro relazioni con gli amministratori pubblici, è questo il baluardo più forte contro la corruzione, che rafforza la democrazia, non prescinde dalla democrazia come nell'altro modello. E però si torna all'approccio zen, cioè se vogliamo costruire questo tipo di barriere, e non basta prendere l'educazione civica, poi la togliamo, la rimettiamo nelle scuole, poi la chiamiamo con un altro nome, poi la fa il professore di lettere, ma cioè non si può continuare a dire che si vogliono efficientare le scuole e ogni anno si tagliano risorse. Perché purtroppo gli studi e le ricerche ci mostrano, tutte le ricerche ci mostrano che i paesi più corrotti sono quelli dove si investe di meno nell'istruzione. Perché purtroppo l'istruzione pubblica, la cultura, sono settori dove le pratiche corruttive rendono poco. E quindi nei settori dove le scelte politiche di fondo sono dominate dalle cricche dei corrotti e dei corruttori, si investe di più in altri settori. Quindi io direi che l'approccio all'anticorruzione, diciamo, più illuminato dovrebbe essere questo. Sui reati ambientali l'esempio di Taranto è drammatico, perché di fronte a tutte le catastrofi ambientali che noi osserviamo, le discariche abusive, la terra dei fuochi, in Toscana non so quante sono state mappate, le stanno ancora mappando, i luoghi dove vengono sversati i rifiuti eliquami tossici, di fronte a ognuna di queste realtà, noi scopriamo che molto banalmente c'è stato spesso un coinvolgimento della criminalità organizzata che ha fatto un po' da regolatore di questi traffici, da intermediario rispetto ai beneficiari, gli imprenditori che in questo modo abbattevano drasticamente i costi dello smaltimento, ma soprattutto c'è stato un tessuto di corruzione capillare rispetto a chi avrebbe dovuto svolgere un'operazione di vigilanza e di controllo sul territorio. Era una libro paga. La storia dell'Ilva di Taranto non è soltanto la storia della peggiore catastrofe ecologica nella storia d'Europa, secondo tutti gli indicatori, rispetto alla mortalità, al tasso di malformazioni infantili e così via. È una storia di corruzione capillare che va dalla micro tangente di 10.000 euro che veniva pagata al tecnico che doveva fare le rilevazioni dell'inquinamento dell'atmosfera, e ovviamente le forniva, diciamo, in modo che fossero, diciamo, accomodate. C'è quell'intercettazione terrificante: ah, ma con questi dati siamo tranquilli, uno o due tumori in più l'anno, una minchiata, testuale, virgolettato. Erano molti di più di due o tre tumori l'anno, ovviamente, ma la corruzione, diciamo, di livello più alto, che si può quasi definire una corruzione sistemica, quella per cui, se mi date a rileggere le intercettazioni dei dirigenti dell'ILVA, gestione Riva, nella vecchia gestione, questi erano, la formula quale può essere, culo e camicia, con gli alti dirigenti ministeriali, coi politici, dei quali ovviamente finanziavano i convegni, finanziavano le fondazioni, che poi avrebbero mandato le ispezioni per verificare, guarda caso, quelle ispezioni rivelavano che era sempre tutto a posto e si concedevano proroghe nella violazione di tutte le norme e disposizioni vigenti in merito alla tutela ambientale. Quindi una corruzione che non era neanche più corruzione nel senso previsto dal codice penale, diventava una forma di corruzione, cioè di abuso nell'esercizio del potere pubblico, che era di fatto legalizzata. Legalizzata, corruzione legalizzata, un ossimoro apparente di cui si parla anche lì nel libro sullo Zen. E quindi, come dire, non è un tema diverso da quello della corruzione parlare dei reati ambientali. Abbiamo fatto un lavoro appunto con l'amico Antonio Pergolizzi, in cui viene fuori che le regioni dove c'è un maggior numero di reati ambientali sono le regioni dove c'è un maggior livello di corruzione. Perché chi opera, come dire, in modo, per così dire, disinvolto nelle attività produttive o nello smaltimento dei rifiuti, commettendo reati ambientali, ha bisogno di avere coperture e protezioni. E la corruzione è una delle strade, i contatti con la criminalità organizzata sono l'altra strada maestra per avere questo tipo di salvaguardia. La questione della dirigenza amministrativa. Bene, noi abbiamo il sistema di apposizione dei dirigenti amministrativi, come dire, l'hanno inventato in America, no? Un sistema che in qualche modo, o meglio, conforme al modello anglosassone, è un modello che prevede che vi sia un rapporto fiduciario diretto tra quello che in Italia viene chiamato l'organo di indirizzo politico, il politico, e un certo, diciamo, livello tendenzialmente apicale, ma ripeto, nel contesto ad esempio statunitense, che investe anche i livelli più bassi dell'apparato burocratico, che in qualche modo vede questi soggetti cambiati ogni volta che c'è un ricambio a livello politico. Quindi un'amministrazione che deve essere rispondente in qualche modo all'input che deriva dalla politica. Ora, questo sistema che si è tentato di introdurre in Italia, e lo si è fatto all'inizio degli anni 2000 soprattutto, Frattini ha dato un bel contributo in questo senso, ha una sua logica che vuole, diciamo, il rapporto fiduciario fra quello che dovrebbe essere il soggetto politico che pone gli obiettivi e l'attore burocratico che dovrebbe essere in qualche modo il soggetto che organizza le risorse a disposizione dell'amministrazione pubblica per il conseguimento degli obiettivi, basato, diciamo, su un duplice elemento: la competenza del funzionario pubblico e, diciamo, il legame fiduciario che lo lega al soggetto politico. Quindi c'è una sua logica, diciamo, nell'immaginare un meccanismo di questo tipo. Il problema è che nella sua declinazione, nella sua applicazione italiana, al contesto italiano, anziché le virtù potenziali di questo modello, sono emersi, direi in modo drammatico, i possibili limiti, i possibili lati oscuri di questo rapporto fiduciario diretto. Perché molto banalmente queste due componenti, rapporto fiduciario e competenze, che il politico avrebbe interesse a valorizzare, perché se nomina un bravo dirigente apicale, questo è quello che gli permette di attuare meglio i suoi programmi e quindi di presentarsi di fronte all'elettorato con un, come dire, con un bilancio più positivo, no? Quindi nel modello virtuoso. Ma nel momento in cui questo tipo di responsabilità si allenta, perché, diciamo, la pubblica amministrazione è un mondo nebuloso, è un mondo ambiguo in cui, come dire, la conformità rispetto alla gestione dei processi conta più dei risultati che si ottengono, quindi conta molto più, come dire, operare senza infrangere regole che ottenere risultati concreti, spesso, diciamo, o perlomeno i meccanismi di controllo puntano soprattutto su quello, il tema dell'ultima domanda su cui arrivo tra poco. Quindi nel momento in cui questo meccanismo, come dire, in qualche modo di conseguimento degli obiettivi, la performance, questa sconosciuta, si attenua perché è un po', diciamo, distante dal modus operandi e anche dal modo di pensare prevalente all'interno, dominante all'interno della pubblica amministrazione italiana, vuoi per la formazione giuridica di buona parte della sua componente, specie quella apicale. Vuoi quando viene meno questo diciamo, requisito della competenza, come dicevo giustamente, per un lungo periodo neanche i curricula erano pubblici, si poteva diventare dirigenti così, per chiamata diretta, per investitura dall'alto, verrebbe da dire, no? Quindi nell'uno o nell'altro, legame fiduciario che diventava spesso una copertura omertosa, tu fai i tuoi affari, io faccio i miei, tu mi copri, io ti copro, diventava più un legame collusivo che un legame fiduciario. E competenze che in qualche modo non venivano rese pubbliche o comunque non venivano valorizzate, quelle effettive, è chiaro che il risultato è stato quello che descrive lei nella sua, diciamo, distorsione patologica. Cioè il fatto che la capacità e il potere di nominare discrezionalmente i vertici della diciamo, alcune figure apicali all'interno della pubblica amministrazione è diventato un processo di distorsione e di opacizzazione di quel tipo di relazione che invece in qualche modo dovrebbe essere legata a una funzione di imparzialità e, diciamo, di valorizzazione delle competenze. L'ultima questione, il sistema dei controlli. Sono perfettamente d'accordo che il sistema dei controlli prevalente in Italia presenta dei limiti e delle pecche, direi quasi esistenziali. Io partecipai ai lavori del Comitato di Studio per la Prevenzione della Corruzione nel 1996, Comitato Cassese, perché era presieduto da Sabino Cassese, e in quel rapporto ricordo ancora che uno dei passaggi cruciali diceva che in Italia occorreva, e lo diceva Sabino Cassese, uno dei massimi esperti nello studio, più di 120 proposte di intervento legislativo possibile per prevenire la corruzione, nessuna delle quali attuata negli anni immediatamente successivi, ma una delle proposte era quella di far sì che vi fosse un diverso orientamento del meccanismo di controlli prevalente all'interno della pubblica amministrazione italiana, che dominato dal controllo di processo, il controllo della conformità procedurale, doveva essere orientato a un controllo di prodotto, cioè quello che viene fatto dalla pubblica amministrazione italiana. Questo era nel 1996. Chi fa i controlli? Ad esempio la Corte dei Conti. Corte dei Conti, uno si immagina dei soggetti che hanno competenze di carattere, appunto, contabile, sanno fare i conti. Sono tutti giuristi, o nella stragrande maggioranza sono giuristi. Che poi, per carità, in Italia abbiamo una tale pletora, una tale quantità di giuristi in ogni ruolo, che alla fine c'è anche un processo di selezione, per cui ci sono anche quelli bravi che imparano altri mestieri. Ma di fatto questo tipo di controlli non può che essere improntato e a rilevare se vi sono delle difformità tra quanto previsto dalle norme e quanto in concreto realizzatosi nell'atto amministrativo. Cioè questo è il controllo dominante, rimaniamo ai controlli di processo. E allora mi viene in mente, come dire, come esempio di una pubblica amministrazione possibile, ma che ancora non c'è, un lavoro che ha fatto giusto l'ANAC, un controllo di prodotto. Che cosa ha fatto l'ANAC? Una bellissima ricerca in cui sono andati a prendere gli appalti banditi dalle ASL di tutta Italia per un tipo di servizio omogeneo, il servizio di pulizia negli ospedali. Ovviamente con tecniche econometriche abbastanza semplici, normalizzato in modo da vedere qual era il costo per metro quadro considerato le diverse caratteristiche degli edifici, cioè, quindi normalizzato sulla base dei parametri dei vari ospedali, e hanno scoperto che un'ASL di Caserta costava in media il 150% in più della media delle altre ASL italiane. Era quella con la maggiore, diciamo, difformità. Cioè, in media, un appalto per pulizia, a parità di tutte le altre condizioni rispetto agli altri appalti per pulizia negli ospedali italiani, costava una volta e mezzo in più rispetto alla media, che non è il valore in cui, per così dire, non c'è inefficienza, non c'è spreco, non c'è corruzione. È la media degli sprechi, della corruzione, dell'inefficienza di tutte le ASL italiane. Quella aveva una volta e mezzo in più. Il problema qual è? Che in questo rapporto il nome di quell'ASL è sbianchettato. La privacy. Possiamo saperlo. L'ospedale è stato poi commissariato perché era di fatto gestito dal cognato di un casalese che aveva l'ufficio lì dentro. però bastava leggersi questo elementare fattore di controllo basato su un'analisi di prodotto, no? Per la qualità del servizio, qual è il costo effettivo che paghiamo. E allora sì, non posso che essere d'accordo che occorrerebbe introdurre meccanismi di controllo anche esterno, che ovviamente guardassero al prodotto, alla qualità dei servizi erogati, al costo effettivo che viene pagato, cioè tutte cose che sappiamo e che ci ripetiamo almeno dal 1996. E allora io mi chiedo, perché, diciamo, il politico lungimirante, anziché lanciare l'hashtag spazza corrotti, anziché prevedere il DASPO a vita per chi è coinvolto in inchieste di corruzione, non cerca di operare riforme che vadano in questa direzione? Perché si parla da inizio degli anni 90 di semplificazione dell'apparato amministrativo, delle norme, delle regole? C'è stato un ministro che addirittura fece un falò, mi ricordo, nel piazzale dei vigili urbani di Roma, un ministro, il falò delle 200.000 leggi abrogate, nessuna legge è stata, sono ancora tutte lì. Perché la riforma della pubblica amministrazione non va veramente in quella direzione di semplificazione che tutti auspicano? E persino le leggi annuali di semplificazione erano leggi complicatissime e quasi inintellegibili, le leggi di semplificazione, quindi occorreva una meta legge di semplificazione che semplificasse le leggi di semplificazione. Perché tutto questo? Mi verrebbe da dire perché esiste un blocco di potere, un'oligarchia vera all'interno di questo paese, che di questo sistema e delle rendite derivanti da questo sistema si nutre, si alimenta. E che non è soltanto un'oligarchia criminale, anche dei suoi appendici nella corruzione, nei contatti, nelle contiguità con le organizzazioni mafiose. Oligarchia ampio spettro, non comprende solo la componente politica, cioè comprende anche, diciamo, ha ampie proiezioni all'interno della cosiddetta società civile. Un'oligarchia, quindi sono i pochi, sono sempre pochi, che in qualche modo attraverso questo sistema che non si riesce, guarda caso, a riformare, traggono enormi vantaggi a spese della collettività. E allora finché non si, come dire, coglie, legge la natura, le dimensioni, il perimetro di questa oligarchia e si inizia in qualche modo a alimentare proprio quel processo dal basso che può permettere di trovare le energie e le forze per attivare quei processi di riforma che sappiamo essere necessari, che sappiamo anche indicare, ma che nessuna forza politica, guarda caso, negli ultimi decenni è riuscita a attuare. Ecco, finché non riusciremo a realizzare queste condizioni, temo che ogni proclama, ogni tentativo più o meno illuminato di lanciare hashtag contro la corruzione produrrà gli effetti che ha prodotto finora, cioè praticamente nessuno. Io non voglio aggiungere altro, se non due cose veloci. Un flash tuo che dicevi nessuno si senta offeso, ma io mi domando quanto la pubblica amministrazione è stata terreno di voto di scambio, per esempio, e quindi quanta gente lavora nella pubblica amministrazione semplicemente per portare a casa un salario e quanta gente lavora nella pubblica amministrazione perché ha vinto un regolare concorso per merito, perché bisogna dire che anche qui un nostro comune amico, una sera a cena, uno che ha fatto tanta politica, amministrazione, giustamente dice, un giorno va in un'assemblea importante e chiede cosa chiedete voi a uno che fa politica, e all'unisono quasi hanno risposto l'onestà. E lui dice, io quando chiamo l'idraulico a casa, voglio che quando apro il rubinetto non mi si accenda la luce, voglio che scenda l'acqua, quindi l'onestà insieme alla competenza. Ma l'onestà è un prerequisito. Allora io mi domando quanta gente nella scuola, nella sanità e da altre parti è entrata dentro in maniera non proprio regolare e non da cittadino responsabile ma da servo, magari anche per necessità, per carità, ma io mi ricordo di miei amici che i padri hanno pagato o acquisito tessere di partito purché il loro figlio, la loro figlia entrasse, e magari adesso hanno fatto anche dei percorsi di carriera, entrano in quegli elementi decisionali che si diceva. Secondo flash veloce, lei citava i dati e il professor Vannucci, insomma, li ha spiegato molto bene. Guardavo Gian Guido perché pensavo che al tema della sicurezza, su cui secondo me c'è, rispetto al tema della corruzione, una dinamica diversa, e mi spiego. Se io dico, la differenza è tra la percezione e la realtà. Se io presento i dati, correggimi se sbaglio Gian Guido, e dimostro, dico i dati sulla sicurezza sono questi, li dà il Ministero dell'Interno i dati sulla sicurezza, e dice guarda che l'Italia è un paese sostanzialmente sicuro, molto più sicuro di altri. Se tu molto dici, più sicuro di 20 anni fa. Esattamente, no, perché la gente si dimentica per esempio che anche in queste terre c'erano contemporaneamente più persone sequestrate dall'andrangheta o dalla criminalità sarda. No, ci siamo dimenticati, poi quei riscatti hanno preso i mezzi per fare l'autostrada del sole, eccetera, eccetera. tu gli dici: guarda che io ti porto i dati, ma ti rispondono, ma io percepisco di essere insicuro. Quindi la sproporzione qual è? Oggettivamente puoi stare più tranquillo che da altre parti, che da altri paesi, ma sostanzialmente, non dico tutti, adesso estremizzo per far capire la logica, accidenti, non mi sento sicuro. Sulla corruzione, tu hai, loro ci insegnano che non c'è, e quando ti dicono una certa cifra, la Corte dei Conti, no? 60 miliardi, dimostrano gli studi più seri che magari dire, fosse solo quelli, sono molti di più. Quindi tu hai, diciamo così, la percezione, le analisi dell'Eurobarometro dei dati ti dicono che in Italia la gente percepisce che c'è tanta corruzione. Poi se vai a vedere i dati, ti dicono i dati magari economici che ti sparano. Qualche anno fa, prima dell'ANAC, c'era un altro ente che ti diceva: guarda, il numero delle denunce è basso. Allora lì era proprio ridicolo, ma uno ti dice: guarda, 60 miliardi, e tu dici: accidenti, 60 miliardi è tanta roba. In realtà loro ti dicono: sono molti di più. Ecco la differenza. Molti non sono misurabili in termini monetari. Esattamente, no? È perché hai delle privazioni di diritti. Allora io penso che accanto ai dati oggettivi bisogna anche imparare a comunicare in maniera diversa, raccontando delle storie, per far capire che la corruzione la paghiamo veramente noi cittadini onesti. Io ho sempre in mente un'audizione che in quegli anni una commissione del Senato fece al pool di Mani Pulite. Colombo portò questo esempio, dice: immaginate che un imprenditore, per costruire un palazzo di 10 piani che costa 1 miliardo, allora mettiamo adesso 1 milione di euro, debba pagare 100.000 euro di tangente, ok? Ovviamente l'imprenditore cosa deve fare? Deve far profitto. L'articolo 41 della Costituzione dice però anche: devi stare attento al benessere sociale, non devi solo fare soldi, devi farli perché quello è il tuo mestiere, ma devi stare attento e stare dentro certi paletti. Bene, se la pagano i cittadini, come rientrerà di quei 100.000 euro che deve pagare? In due modi. Il primo, magari le persone l'hanno già comprato quell'appartamento sulla carta, magari anche dei giovani che si stanno per mettere insieme in varie forme. Okay? Allora cosa ti verrà a dire a un certo punto l'imprenditore? Guarda, mi sono accorto che per fare il palazzo bisogna fare una miglioria, o mi chiedono di fare delle cose, c'è una variante. Allora, anziché darmi 100.000 euro dell'appartamento, me ne devi dare 110.000. Allora, a quel punto lì uno deve mettere in conto che due opzioni: o trova 10.000 euro in più, che è un costo per lui, o rinuncia all'acquisto e rinuncia magari a un progetto che dietro quell'acquisto ci sta. Oppure cosa fa l'imprenditore? Non chiede nessun aumento, però mette il tondino di ferro più piccolo rispetto a quello da capitolato, mette un po' più di sabbia anziché di cemento, ti mette insomma dei materiali scadenti, e poi a un certo punto i palazzi vanno per terra, crollano. Ecco dove stanno i costi. Adesso io non voglio fare il maestro delle storie, ma sono convinto, andando da tanti anni nelle scuole, come con le mafie o quant'altro, che partire dalle questioni vere, dalle questioni più vicine alla realtà, per esempio con i ragazzi, partire dal tema della contraffazione. A chi non piacciono le robe firmate? Ok, ma se tu chiedi quanto costa un paio di Hogan, 250 euro, prima dici: quanti, ho visto tante Hogan stamattina, fighissime, quanto costano le Hogan? 250 euro. Oh, allora, complimenti, perché in un'Italia che tutti gli indici ci dicono che sta perdendo posti di lavoro, le fabbriche chiudono, non si arriva alla terza settimana se non alla seconda, tutti hanno le Hogan. Ok, poi alla fine qualcuno ti dice: ma sono tarocche. Ok, sono tarocche perché l'hai comprata taroccata. Non solo perché costa meno, perché con le Hogan ho accesso a certi circuiti sociali, dentro i quali vengo riconosciuto, ho un'identità. Poi allora cominci a dire: ma come si costruiscono le scarpe tarocche? Allora scopri che c'è un pezzo di imprenditoria legale che, per non perdere quei mercati, fa anche fare delle cose legali. Ma dietro quell'illegalità scopri sfruttamento, evasione, mafia, corruzione e quant'altro. Ci arrivi in questo senso. Allora una preoccupazione che avverto anche come coordinatore di avviso pubblico è come intercettiamo l'interesse della popolazione anche su questi temi, e non solo sui temi legittimamente della sicurezza, delle pensioni e delle tasse. Perché se facciamo meno figli e c'è un tasso di legalità alto, chi garantirà il welfare fra 20 anni, fra 30 anni? È questo uno dei temi. E quindi questo era un passaggio. L'altro, rispetto ai controlli che venivano detti, faccio una pubblicità a fin di bene, perché vuol dire sostenere avviso pubblico. Noi, grazie anche al professor Vannucci, abbiamo fatto un libro, copyright del titolo è suo, La trasparenza im, tra virgolette, tra parentesi, possibile. Tutto quello che c'è da sapere sul diritto d'accesso in Italia. L'abbiamo pubblicato, è un ebook, lo trovate sul sito di avviso pubblico, costa 5 euro. Ma perché abbiamo fatto questo manuale, manualetto, che è utile sia per chi amministra sia per i cittadini? Perché se noi abbiamo dei diritti, cioè delle possibilità, bisogna che impariamo a esercitarli bene, quelle possibilità. Perché se no qualcuno ti può sempre rispondere, è previsto dalla legge, che se tu mi fai delle richieste massive o me le fai sbagliate, io sono legittimato a non risponderti. Se invece me le fai bene e me le fai in un certo modo, probabilmente acquisisco quelle informazioni, che però devo avere poi anche la capacità di rielaborare e l'onestà intellettuale di dire sì, ho capito, oppure no, le cose non vanno bene, allora ti dico, mi permetto di suggerire, o attivo una campagna, faccio della confusione in termini positivi, dico, per cambiare le cose. Ecco, io penso che se uno si legge il report dell'Istat sulla dimensione culturale del nostro paese, sul cosiddetto analfabetismo di ritorno, i test PISA, leggo un testo ma non lo so comprendere, sì, eccetera eccetera, ecco, quello sia un vero problema, un vero tema su cui mettere testa. Così... Una cosa che non hai detto, il ricavato del libro va, sì, tutto per le borse, esatto, di studio. Ecco, lo volevo dire, il ricavato del libro è tutto in borse di studio. Grazie alle borse di studio, per esempio, dal master del professor Vannucci, oggi un suo allievo è un pilastro portante dell'osservatorio parlamentare. Ecco, capite che questo nel nostro piccolo è un modo per tenere dei ragazzi... Non pensate a paghe enormi, eh? Cioè, vorrei che rifletteste anche su questo. Ci sono ragazzi straordinari che accettano per passione, anche per un grande senso civico che hanno, di iniziare un percorso professionale che non è solo questo per loro, anche partendo da queste condizioni, perché oggettivamente non ce la facciamo ad andare di più. Ma perché? Attenti, nel mondo che Alberto soprattutto vi ha spiegato, c'è anche il tentativo di acquistare consenso nelle nostre associazioni. Se arriva uno e ti dice ti do 50.000 euro, 100.000 euro per fare un progetto, e magari ha tutte le carte in regola, tutti i crismi, o tu non sei sufficientemente forte da fare una valutazione di un certo tipo, magari con quei 100.000 euro lì tu vai avanti 3 anni e prendi 2 persone, fatto salvo che poi a costruire una credibilità ci metti 25 anni. A perdere ci metti 2,5 nanosecondi. Ecco, è questo. Allora, certamente informarsi, certamente studiare, ma poi anche preoccuparsi di saper veicolare quello che si dice. Perché stasera magari noi abbiamo usato un certo linguaggio avendo voi davanti, ma provate a misurarvi anche con dei ragazzi più giovani, che tra l'altro non solo hanno un linguaggio diverso, hanno mezzi diversi. I miei figli, mi sa, usano Instagram. Non voglio dire, hanno 13 anni, no, come uno degli strumenti della loro comunicazione. Allora ti devi preoccupare magari di costruire un video per raccontare che la corruzione costa e che non ti aiuterà nemmeno a fare una bella scuola come ti piacerebbe, perché il corrotto ti vuole ignorante, non ti vuole istruito. Ecco, questo è solo un piccolo passaggio. E sui controlli ho citato questo libro sul FOIA, perché ecco, bisogna anche imparare, bisogna fare una fatica. La fatica, se si fa insieme, è più ridotta e porta a quelle che abbiamo chiamato le comunità monitoranti. Lui con Leonardo Ferrante ha scritto un altro bel libro, si chiama Anticorruzione Pop, se ve lo segnate, sempre edizioni Gruppo Abele, e lì ecco, ci sono delle riflessioni importanti per quei cittadini che vogliono essere attivi nel senso responsabile del termine. Ecco. Basta, scusate, e buon tutto. Siamo in orario, andiamo. Andare alla stazione.